Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, l'ultima della settimana, settimana intensa, e quindi vediamo di chiuderla in bellezza, si fa per dire. Oddio, no, qualche buona notizia oggi c'è e riguarda soprattutto quello che ha ottenuto l'Italia. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, o meglio a Enrico quel che è di Enrico. Il Premier Letta ha ottenuto uno stanziamento ulteriore sui fondi per la disoccupazione giovanile. Chiarisco subito che i soldi non sono tanti, a mio avviso ha ragione il Presidente Confindustria Squinzi oggi nel dire un pacchetto di aiuti come valore modesto, anzi modestino, ha detto sono 6 miliardi più altri 3, 9 miliardi aggiunti oggi per tutti i paesi europei per favorire le politiche sull'occupazione giovanile. All'Italia arriverà 1,5 miliardi, che è più del doppio di quanto non si attendesse inizialmente. E quindi però con dei vincoli, per cui noi entro dicembre dobbiamo essere pronti, e questi soldi arrivano se tu hai delle agenzie di collocamento, la dico in maniera un po' brutale, che nell'arco di 4 mesi riescono a ricollocare un giovane che è disoccupato. A quel punto hai diritto a utilizzare questo stanziamento. Il problema nostro è che abbiamo delle agenzie di collocamento che lavorano non in maniera così efficiente, e infatti sarebbe da chiedersi se il governo utilizzerà anche i soggetti privati, le agenzie di collocamento interinale per utilizzare questo contributo, altrimenti i soldi non li puoi spendere, è come se non ti fossero stati dati. Va detto che pur essendo non altissimo questo stanziamento, la vittoria politica secondo me c'è, perché un tema mesi fa non era nemmeno in agenda, invece l'Italia è riuscita a portare in agenda il tema delle politiche per l'occupazione giovanile, a far aumentare anche la dotazione dei soldi e a farla passare anche alla Germania. Per cui politicamente secondo me è una vittoria. Da un punto di vista sostanziale, beh certo, non è con questi soldi che risolvi il problema della disoccupazione giovanile, e la cifra non è probabilmente sufficiente, diciamocelo in maniera molto molto chiara. E questo sarà il tema della seconda ora del programma, dalle 18 alle 18.30, ci collegheremo anche con Bruxelles. Parleremo invece di imprese e della situazione del nostro manifatturiero, del timore che con questa crisi l'Italia possa cambiare paesaggio industriale ed economico, cioè ritrovarsi senza pezzi, fette intere del suo settore manifatturiero, che lo dico per tutti, è quello che ha creato la ricchezza in questo paese negli ultimi 50 anni, cioè grazie alla piccola e media impresa che intere aree geografiche del paese, prima povere, nord-est, dorsale adriatica, alcune zone del sud, del centro-sud, hanno conosciuto alti livelli di benessere, anche la grande impresa, ma soprattutto la piccola e media sul territorio. Allora, se noi perdiamo pezzi interi di manifattura, non perdiamo solo la singola impresa, la singola industria, perdiamo la cultura stessa di questo paese in alcune aree geografiche di questo paese. Il rischio c'è, perché con questi tassi di chiusura delle imprese, il rischio di ritrovarsi dopo 5, 6, 7 anni di crisi con un'altra Italia è altissimo ed è fortissimo, e di questo parleremo con il presidente degli industriali del Veneto, Zuccato, tra poco, perché se ne occuperanno la settimana prossima. Pensate che hanno invitato il docente di Harvard più famoso in America, che teorizza il ritorno per gli Stati Uniti al manifatturiero. Io dico, dimmi un po' se devono spiegarcelo gli americani quanto è importante il manifatturiero, visto che noi siamo da sempre la patria dei distretti, delle piccole imprese e quant'altro. Di questo, dicevo, parleremo in apertura, parleremo anche di altre vicende, a partire dalla borsa, che è negativa di uno 0,60% a Milano, invariata a Francoforte, invariata a Parigi, invariata a Londra, anzi Londra fa meno 0,07, non poteva che fare meno 0,07 Londra. Banco Popolare meno 4,1%, UbiBanca meno 2,70%, Prismian meno 2,60%, Popolare Milano meno 2,5%, Unicredit meno 2,30%, Fiat meno 2% come Fondiaria, l'1,80% lo perde la Popolare Emilia Romagna, l'1,60% Mediobanca, l'1,50% il calo di Buzzi Unicem, l'1,40% quello di Enel, di Assorin e A2A. Bene invece Mediaset più 3,30, Finmeccanica più 2, Tods più 1,70, Enel Green Power più 1,30 come Snam, Rete Gas. L'1,1 lo guadagna Terna, lo 0,90% G-Tech, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Vedo che molti di voi si scagliano sulla frase del Premier Letta che ha detto ora le imprese non hanno più alibi per non assumere. Beh, diciamo che anche secondo me non è una frase così felice. Non è che le imprese assumano o non assumano a seconda degli alibi, assumono o non assumono a seconda degli ordinativi, del fatturato, della produzione, di come vanno le vendite, cioè. Non conosco imprese che con alti ordinativi e una forte domanda non assumano per motivi ideologici, per cui dire che adesso le imprese non hanno alibi per non assumere, così lascio un po' perplessi. Restiamo invece, visto che citavo la borsa e le altre borse, sui mercati internazionali. L'oro oggi è sceso sotto i 1200 dollari l'once, cioè il livello più basso dall'agosto del 2010 e da quando era già iniziata quella corsa dell'oro. È vero che l'oro ha corso tantissimo in questi anni, da quando è scoppiata dal 2007-2008, però da inizio anno l'oro ha già perso il 30% del suo valore. Va detto che il 2012 era stato l'undicesimo anno di fila di rialzo del prezzo dell'oro consecutivo, per cui i cali sono iniziati sostanzialmente verso aprile 2013, ha fatto meno 24%, pensate che è il calo trimestrale più forte dai tempi di Bretton Woods, da quando ci fu Bretton Woods e vennero slegate le valute dalle riserve dell'oro. Altre notizie di questa giornata economico-finanziaria, ripeto, poi parleremo dell'Europa. Devo dire, il Premier Enrico Letta però ha detto una cosa che vorrei farvi ascoltare anche adesso. Su IMU e IVA c'erano degli accordi, delle pressioni lo aggiungo io, degli accordi di carattere, di impegni di carattere politico, ma io non sono il Presidente del Consiglio che sfascerà i conti. Sulle altre due questioni, IVA e IMU, erano impegni presi con il discorso di insediamento in Parlamento e continueremo, come ho sempre detto fin dall'inizio, a far di tutto perché senza sfasciare i conti pubblici, perché chi pensa che io sia qui per sfasciare i conti pubblici ha sbagliato, Primo Ministro, io sono qui per tenere in equilibrio i conti pubblici italiani e riuscire a far partire, ripartire l'economia attraverso le scelte che si possono negoziare, e oggi quello che abbiamo ottenuto da Bruxelles è la dimostrazione che se si va con le idee chiare, scegliendo gli obiettivi giusti, con le alleanze giuste, si ottengono risultati, soldi, risorse su ciò che è utile, perché quello che abbiamo ottenuto a favore della lotta alla disoccupazione giovanile dimostra che si possono ottenere risultati a Bruxelles agendo nel modo giusto. Sul buco dei derivati, ne abbiamo parlato, l'Italia fine anni 90 sembrerebbe, per riuscire a entrare nell'euro, avere un deficit sotto il 3%, questa è l'accusa, ha sottoscritto contratti di carattere derivato per oltre 31 miliardi di euro, ci sarebbe una perdita se li vendesse adesso, se chiudesse adesso le posizioni, di 8 miliardi, è chiaro che finché tu non vendi, non chiudi le posizioni, non perdi. Però questa cosa l'ha scoperta il Financial Times. Oggi il Premier Letta ha detto il buco per i derivati è una vicenda chiusa. Mi sembra un tema già chiuso, noi ce l'auguriamo. Non è già chiuso invece per il New York Times, che oggi scrive una cosa molto pesante. Quello che sembra essere accaduto in Italia è simile a quanto già sappiamo ha fatto la Grecia. Invece che chiedere prestiti che avrebbero aumentato il deficit, il paese ha aperto contratti derivati in base ai quali le banche facevano importanti pagamenti in anticipo per poi ricevere pagamenti ancora più importanti dopo. Questo era un po' il gioco, cioè tu ti beccavi 32 miliardi di prestito, chiamiamolo così in realtà, che poi vai a ripagare nel corso degli anni dal 2016-2020, adesso vado a memoria, non mi ricordo più, in poi, con gli interessi. Però è come se io chiedessi un prestito, diciamo, a una società di credito al consumo, e poi con questo prestito andassi alla banca a dire: adesso io sono più ricco, dammi un mutuo più alto perché io ho 30.000 euro in più. Peccato che poi li dovrò ritornare con gli interessi. Il New York Times aggiunge anche però che i derivati non sono solo armi di distruzione di massa, come li ha definiti Warren Buffett, ma spesso sono anche armi di inganno di massa. E mentre accogliamo le rassicurazioni del governo sul tema dei derivati, io però devo anche registrare oggi la chiusura dello stabilimento Whirlpool di Spini di Gardolo a nord di Trento, che dà lavoro a 450 persone. La produzione dei frigoriferi ad incasso verrà trasferita a Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese, e dove ci sarà il lab europeo. Però una parte della produzione di Spini, una produzione di frigoriferi a libera installazione, una parte minore, verrà invece portata in Polonia, a Wroclaw. E sempre sul fronte occupazione, Indesit Company ha messo in libertà i lavoratori degli stabilimenti di Melano e Albacina Fabriano. Una mossa a sorpresa dopo gli scioperi indetti dai sindacati contro il piano di ristrutturazione dell'azienda. In un comunicato congiunto, Fiom, FIM e WIM accusano Indesit di comportamento antisindacale. L'azienda dice: siamo costretti al fermo produttivo a causa degli scioperi di Melano e di Albacina, è impossibile approvvigionare correttamente le linee produttive. Gli operai con la t-shirt con la scritta Vittorio Merloni ci manchi, e i sindacati citano anche il papà Aristide Merloni, nessun valore senza il progresso sociale. E sugli sviluppi della vertenza Indesit, che vede coinvolti ahimè 1500 lavoratori in tutto, la nostra Anna Marino ha raggiunto Gianluca Ficco, che è responsabile del settore elettrodomestici della WIL. La situazione è molto tesa perché la convocazione ministeriale è arrivata insieme ad una dichiarazione aziendale di convinta conferma del piano. Il tavolo preannunciato servirà a qualcosa oppure la situazione veramente sta precipitando? Guardi, noi ce lo auguriamo vivamente, nell'interesse naturalmente dei lavoratori che rappresentiamo, ma nell'interesse, voglio ribadirlo, dell'intero paese, dell'economia nazionale, perché noi stiamo rappresentando da tempo oramai un pericolo di deindustrializzazione complessiva del nostro paese e comunque un pericolo di scomparsa di quello che è il secondo settore industriale italiano, il settore degli elettrodomestici. Il governo deve capire che le sue priorità devono essere altre da quelle che sono state finora. Deve difendere l'industria per difendere il paese, non limitarsi all'operazione contabile. Che cosa farete ora dopo questo fermo annunciato dall'Indesit? Noi continueremo con le iniziative che abbiamo programmato. Abbiamo il 4 una manifestazione ad Aversa, abbiamo l'8 un'assemblea nazionale dei delegati di tutto il settore elettrodomestico e il 12 una manifestazione nazionale a Fabriano. Peraltro immaginiamo il giorno 8 di discutere e di indire anche iniziative di settore. Quali cambiamenti proponete invece di questa situazione? Noi chiediamo ad Indesit innanzitutto un piano industriale che ci faccia capire che l'azienda è determinata a restare in Italia, quindi che renda sul lungo periodo tutti e tre i poli produttivi sostenibili. E poi chiediamo al governo politiche coraggiose, innovative, che veramente capiscano che l'industria ha bisogno di un fisco di favore nel nostro paese e che oggi guardi la priorità sicuramente non è l'austerity e forse non è nemmeno più stimolare i consumi. Oggi la priorità assoluta è stimolare gli investimenti. Se non riprendono gli investimenti, il nostro paese non ce la farà. Quanti lavoratori rischiano e soprattutto, visto che l'azienda ha annunciato che non farà licenziamenti? La dichiarazione aziendale naturalmente noi la accogliamo con favore come disponibilità a concordare strumenti meno dolorosi possibili. Però questa dichiarazione, per riempirsi di contenuto effettivo, ha bisogno di un piano industriale, perché anche gli ammortizzatori sociali hanno bisogno di fabbriche in attività, di fabbriche che lavorano. Per essere credibile c'è bisogno che le fabbriche abbiano un futuro. E questo probabilmente verrà discusso al tavolo con il governo? Ce lo auguriamo. Noi abbiamo chiesto al ministro di convocare un tavolo non rituale, di convocare un tavolo che abbia delle grandi ambizioni, quelli di invertire il processo di delocalizzazione, quello di invertire il processo di deindustrializzazione. Ancora due notizie, ma restiamo in tema di economia italiana. Chiaramente l'inflazione a giugno ha avuto un lieve rialzo, è salita all'1,2%, comunque insomma sempre bassissima. È rincarato il carrello della spesa dell'1,7% contro l'1,5% di maggio. Ma dicevo, noi restiamo in tema di impresa e del caso Indesit e il caso Whirlpool sono casi chiaramente critici, però il tema di fondo è il motivo per cui parliamo di industria e del settore manifatturiero, per chi produce beni e servizi. Il rischio di fondo, lo dico senza nessun allarmismo, che se non si mette un freno a questa emorragia, non è il problema solo della disoccupazione, che è gravissimo, o delle singole imprese che sono in ginocchio e delle banche che gli hanno prestato soldi. Qui andiamo a trasformare il paesaggio anche culturale, perché l'impresa è parte della cultura di un paese, con cui siamo cresciuti dal boom economico in poi fino, diciamo, sostanzialmente all'inizio degli anni 2000, distretti industriali, ricchezza diffusa, ricchezza dei piccoli imprenditori e quant'altro. Allora parliamo di manifattura. Sì, parliamo di manifatturiero, di rilancio del manifatturiero, perché il prossimo mercoledì 3 luglio se ne occuperà un convegno molto importante organizzato dalla Confindustria Veneto, a cui parteciperà tra l'altro anche il presidente di Confindustria Squinzi, dal titolo Il nuovo manifatturiero, un progetto di crescita industriale per il paese. Si terrà a Mestre, bene. Mestre, pomeriggio del 3 luglio, ma il motivo per cui ne parliamo è perché ieri abbiamo commentato a lungo le previsioni della Confindustria, tutte peggiorative: disoccupazione al 12,5% quest'anno e al 12,7% a fine del 2014, con un tasso che, se si include la cassa integrazione, va al 14%. E soprattutto un PIL che cala peggio delle attese, altro che meno 1,1% o meno 0,5% come si diceva l'anno scorso. Quest'anno faremo meno 1,9% se non peggiorerà la situazione. Ci dovrebbe essere un po' di ripresa, dice la Confindustria, la caduta ha toccato il fondo, però e comunque tutte le stime sono state riviste in maniera peggiorativa, con ormai 7.600 imprese che hanno chiuso, sono fallite dall'inizio dell'anno. Nel 2012 furono 12.442 imprese. Stiamo raccontando un insieme di fallimenti che sono circa 1.000 al mese, 34 al giorno, il 30% in più rispetto al 2009. Solo nel quarto trimestre del 2012 hanno chiuso 3.600 imprese, che è il dato peggiore da quando è scoppiata questa crisi. Allora qui il tema non è, a mio avviso, quale tipo, certo che anche quale tipo di manifatturiero, quale tipo di impresa vogliamo consegnare ai nostri figli, ma è anche la sopravvivenza del manifatturiero o la sopravvivenza del paesaggio industriale e produttivo di questo paese come l'abbiamo conosciuto fino adesso. Perché a forza di chiusure tu rischi di ritrovarti con un paesaggio, ripeto, industriale e produttivo diverso da come te lo ricordavi nel 2007-2008. Questo, a mio avviso, è la vera sfida. Però vorrei capire qual è il progetto che verrà presentato mercoledì prossimo con il presidente di Confindustria Veneto, Roberto Zuccato. Buonasera innanzitutto. Buonasera dottor Barisoni, buonasera a tutti gli ascoltatori. È troppo forte la mia affermazione che qui, più che discutere su quale tipo di manifatturiero, dobbiamo chiederci se riusciamo ad avere ancora un manifatturiero con questi numeri senza misure immediate. Ma purtroppo sì, e questo è un tema che ricorre. Io da tempo sostengo, come il presidente Squinzi, che ci vogliono degli interventi decisivi, importanti, perché per far ripartire l'economia, perché anche diventino operative e attive le azioni di governo di questi giorni, come per esempio l'incentivazione sulle assunzioni, c'è bisogno prima di creare l'assunzione, quindi il bisogno della richiesta di lavoro. E questo purtroppo non nasce da solo, c'è bisogno di un'immissione, io insisto sull'immissione di denaro in circolo, e al momento attuale con la situazione che abbiamo credo sia l'unico sistema per far partire veramente l'economia. Ecco, voi avete invitato per capire quale può essere il futuro del manifatturiero dopo anni di finanziarizzazione dell'economia che ci hanno portato alla bolla che abbiamo visto e alla crisi che stiamo vivendo, ma dicevo avete invitato anche un docente che insegna ad Harvard, è uno dei massimi esperti di manifatturiero, è uno degli ispiratori del manifesto, diciamo così, Back to Manufacture, e si chiama Gary Pisano. Non è un po' strano, quasi paradossale, che il Nord-Est, comunque l'Italia, che è la patria del manifatturiero, la patria della piccola e media impresa, la patria di chi sa esportare, dei distretti industriali, inviti un americano per spiegarci che bisogna tornare al manifatturiero, cioè a quello che ha reso ricco questo paese? Ma può sembrare strano, è un segnale forte che volevamo dare per far capire perché anche il nostro paese intendesse quanto sia importante non perderlo questo manifatturiero che ancora abbiamo, ma che evidentemente ha bisogno di una trasformazione, di un ripensamento. E quello che sta succedendo negli Stati Uniti dopo anni di deindustrializzazione è che questo ritorno forte, un pensiero nuovo che nasce da Harvard, che nasce dall'MIT e che il presidente Obama ha fatto suo, sta a significare quanto sia importante recuperare un'economia del paese. È dimostrato che ad ogni euro generato dal manifatturiero corrisponde almeno un altro euro negli altri settori ed è risaputo quanto i maggiori investimenti in ricerca e in innovazione siano proprio nel manifatturiero, quanto anche il valore dei salari sia più equilibrato e meglio distribuito nel manifatturiero. Ora gli Stati Uniti dopo anni di industrializzazione hanno anche capito che chi non produce, chi non fa, non inventa. Non avere sotto mano quotidianamente la produzione ha fatto capire che è una perdita di competenze straordinario. E allora, siccome è un paese che è sempre stato all'avanguardia, che forse ha dettato a volte in maniera anche sbagliata delle linee, come è successo per il manifatturiero, che ci sia questo forte ripensamento all'interno del paese, abbiamo considerato un segnale importante che doveva essere trasferito e comunicato anche da noi. Ed è per questo che oltre al messaggio che io avevo lanciato al mio insediamento alla presidenza regionale, che quello innanzitutto il nostro territorio deve rimanere manifatturiero, ma forse dobbiamo ripensare un nuovo manifatturiero. Ecco, su questo volevo arrivare, perché allora è chiaro, e ne parliamo spesso, che occorrono iniziative anche di carattere politico e di carattere europeo, non possiamo ripeterlo ogni giorno, ma insomma liberare risorse, distinguere tra deficit buono e deficit cattivo, a mio avviso, tra investimenti e sprechi, per essere ancora più espliciti, e non avere un'ossessione che il futuro si basi solo sul 3% del deficit PIL, occorre far ripartire l'economia e l'occupazione, investimenti di carattere europeo, dicevo, e riduzione del cuneo fiscale, oltre che andare avanti con l'appena iniziato pagamento dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Però, anche immaginando che questo arrivi, Presidente Zuccato, c'è una riflessione che le imprese devono fare, a maggior ragione nel Nord-Est, dove sappiamo che c'è una bassa capitalizzazione d'impresa, cioè le dimensioni ma anche il capitale non sono, diciamo, nel migliore dei mondi possibili, manca anche un polo di aggregazione come può essere Milano, Torino o Roma in altre parti del paese, una metropoli, diciamo, in grado di aggregare talenti, know-how, centri di ricerca e quant'altro, e forse ci si è un po' troppo seduti sull'immagine che il piccolo è bello e anche, diciamo, qualche resistenza di troppo nell'allearsi con i concorrenti. Io dico sempre primum vivere adesso. L'importante è sopravvivere a costo di allearsi con la persona a cui hai fatto la guerra fino adesso. No, non c'è una riflessione da fare anche sulle dimensioni, se vogliamo restare a galla? Assolutamente sì, ma questo è un tema che portiamo avanti da anni, anche sul territorio. noi spingiamo molto sul tema delle aggregazioni in questo momento, è un po' fallito cercare l'aggregazione su base equity proprio per la cultura, che è la mentalità che lei ricordava di questa parte del paese, dove c'è un'imprenditoria nata dagli spin-off, è nata quasi da sottoscale, che si è sviluppata in maniera incredibile, ma che forse ha mantenuto quelle caratteristiche un po' di, come si dice da noi in Veneto, a casa mia, so paron mi. E questo è stato negativo e nel tempo non ha generato quell'aggregazione di imprese per arrivare a una dimensione che oggi, in questo momento, con i mercati lontani, col bisogno di fare innovazione e di avere la finanza adeguata poi per andare a distribuire i prodotti innovativi che si sono creati, oggi non c'è questa dimensione minima e quindi è un motivo per il quale il nostro territorio soffre ancora di più. Poi abbiamo un altro problema, che come diceva lei, dell'attrattività del territorio, mancano ancora collegamenti infrastrutturali importanti, ci manca ancora il collegamento dell'alta velocità, sembrano cose che non incidono, invece sono estremamente importanti, perché per esempio l'attrattività da parte di un management qualificato che può arrivare dalle città, da Milano, da altri centri, ovviamente con tempi di percorrenza estremamente lunghi non consente il movimento veloce. Sono tutti temi che stiamo cercando di affrontare e che sono estremamente importanti. Poi soprattutto la riflessione principale su che tipo di manifatturiero dobbiamo pensare a sviluppare, perché è chiaro che il manifatturiero di base, io uso sempre un esempio, il piegar tubi, oggi serve a poco, perché questi prodotti se li fanno i paesi che oggi stanno camminando alla grande, se li fanno già da soli questi prodotti, quindi dobbiamo avere un valore aggiunto. Io ho chiamato una manifattura digitale, che sembra un ossimoro, ma serve a spiegare quanto con le nuove tecnologie noi siamo in grado di sviluppare una nuova manifattura che assembli design, tecnologia, digitale, competenze e anche abilità manuali, perché non dimentichiamo che la nostra capacità di dare valore aggiunto con la nostra creatività è estremamente importante. Però ecco, sono tutte riflessioni che dobbiamo fare e che devono portare a un nuovo manifatturiero. In bocca al lupo, vedremo poi cosa emergerà anche dalle lezioni, tra virgolette, e dai suggerimenti che ci daranno gli Stati Uniti. Sono assolutamente d'accordo, gli Stati Uniti per anni sono andati avanti a immaginare che tutto il manifatturiero potesse essere delocalizzato, esternalizzato in Cina, ma non solo. Adesso si stanno riprendendo alcune produzioni, anche facendole rientrare dall'Asia, per cui attenzione che la riflessione complessiva su ruolo della finanza e invece economia reale, come si chiama, comunque economia manifatturiera, è una riflessione che è il portato stesso di quello che è capitato 5 anni fa, cioè la grande crisi e la rivoluzione anche che stiamo attraversando. In bocca al lupo e grazie al presidente Confindustria Veneto Roberto Zuccato. Grazie a lei, dottore. Sicuramente un'ultima riflessione veloce. Dobbiamo evitare di perdere le competenze che abbiamo acquisito e che abbiamo sviluppato in questi anni. Il rischio di dover ricostruire una manifattura, è chiaro che si arriverebbe a una situazione dove, con la chiusura delle aziende come sta avvenendo adesso, si perdono tutte quelle competenze della rete dei fornitori, che poi è estremamente difficile ricostruire. Quindi il nostro è un grido di allarme e di intervento immediato, perché non possiamo permetterci, non abbiamo la forza come paese, come può avere gli Stati Uniti, per perdere un manifatturiero e dopo tentare di ricostruirlo. È vero, anche questo è vero, gli Stati Uniti hanno una forza diversa e possono tornare sui loro passi, noi rischiamo, una volta perso quel pezzo, diciamo, di asse produttivo del paese, di non ricrearlo più. Grazie di nuovo al presidente di Confindustria Veneto Roberto Zuccato. Grazie a lei. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa, ma anche di alcuni debutti e anche dell'oro, perché vedo molti messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 sul tema dell'oro. Andiamo con ordine, però adesso parleremo anche delle dichiarazioni del Premier Letta. Ho già detto che la frase che ha detto Letta, adesso le aziende non hanno più alibi per non assumere, scusatemi, mi sembra una frase infelice, perché le aziende non assumono per altri motivi, oltre che per... ma insomma, uno deve iniziare a vedere gli ordinativi prima di assumere e i fatturati. Andiamo sulla borsa, però perché? Perché oggi è stata alla fine una giornata debole e negativa per Milano, che chiude sui minimi meno 1,24%, negativa anche per Parigi, però tutti i cali in Europa sono circa la metà di quello italiano, meno 0,60 a Parigi, meno 0,40 a Francoforte, meno 0,50 a Londra, e l'America perde lo 0,24%. Chi perde di più? I bancari oggi. Erano partite bene le borse questa mattina, anche perché Tokyo aveva chiuso bene, poi invece hanno iniziato a scendere tutti i titoli finanziari, anche se lo spread oggi è in calo, per cui non è quello il motivo apparente. Perlomeno Banco Popolare, dicevo, meno 4,40%, UbiBanca meno 3,70, Unicredit meno 3,40, Mediobanca meno 2,90, Popolare di Milano meno 2,60, come il Monte dei Paschi, Intesa San Paolo meno 2 come Fondiaria Sai. Chi guadagna invece? Mediaset il 2,70%, Snam l'1,5%, Tods l'1,5%, Finmeccanica l'1,20%, Terna l'1,1%. E tra i titoli non bancari in calo segnalo Prismian, l'ex Pirelli Cavi, meno 3%, e poi Fiat meno 2,70, Telecom meno 2,40, Enel meno 2,20%, Saipem meno 1,60, e Azimut e Mediolanum perdono 1,5%. Tra gli altri abbiamo detto di Ferragamo più 0,90, Digitec più 0,90%. Vorrei però partire da un titolo che è un debuttante, ed è Italia Independent. Già avevamo visto nei giorni scorsi molte richieste, prenotazioni del titolo. È l'Apo Elkan, e il suo esordio più 16% a 30 euro per azione. Ha toccato il livello massimo praticamente, è collocato oggi a 26 euro per azione. Molti gli investitori presenti nel collocamento di Italian Independent, il 17% arriva dalla Svizzera, il 13% dalla Gran Bretagna, il 6% da Lussemburgo e il restante 4% dagli altri paesi, per il gruppo che ha chiuso il 2012 con 16 milioni di euro di vendite. Allora, Ciao Condina, Radio Corri Sole 24 ore, buonasera. Tutti. Ti sentiamo male, adesso ripristiniamo il collegamento. Dicevo, Italia Independent ha fatto il botto. Assolutamente, oggi è stato senz'altro il titolo del giorno, e poi insomma c'è anche da capire se è stato favorito dal buon andamento del settore del lusso a Piazza Affari, con Salvatore Ferragamo che ha guadagnato 1%, Tod's l'1,4%, o se addirittura è stata proprio la performance appunto di questa matricola a trascinare al rialzo quelli che sono titoli a maggiore capitalizzazione sul listino principale, ma comunque appartenenti al settore del lusso. I numeri che citavi tu prima parlano da soli, un rialzo insomma attorno al 16% nel primo giorno di quotazione. Pensiamo all'ultima azienda associabile appunto al settore del lusso, che aveva debuttato sul listino di Milano, ed era Moleskine, che non era andata particolarmente bene neppure nei giorni successivi. Invece l'Apo almeno oggi è vero, è vero, perché Moleskine è stata una delusione, diciamola, per chi ci credeva come debuttante, e invece Italian Independent ha fatto più 16,1%, visto che stiamo dando i migliori e i peggiori. Renault è il peggiore, meno 9,5%, e Edes meno 8,90% anch'essa, Media Contact meno 7,70%, tra i migliori invece anche Basic Net più 10,21% e IMSI più 5,40%. Adesso c'è il traffico, poi invece andiamo sui titoli di maggiore capitalizzazione, partendo dalle banche, ma anche Fiat, Mediaset e Finmeccanica, dove purtroppo, lo dico, il mercato ha accolto con favore una notizia brutta, i 2.500 esuberi nella controllata Selex. Ne parlavamo 3 giorni fa, la borsa ogni tanto, quando ci sono momenti di crisi, accoglie con festa, tra virgolette, facendo salire i titoli di gruppi che annunciano licenziamenti. È chiaro che qui si pone un problema tra l'interesse dell'azionista, della finanza e l'interesse della collettività del paese. E in questo caso finanza e, diciamo, collettività non vanno necessariamente d'accordo, perché i licenziamenti e gli esuberi sono sempre una brutta notizia, mai una bella notizia. Traffico. minuti. Allora, ciò condina, dicevo, le banche, come mai così deboli nonostante lo spread oggi non avesse dato particolari problemi? Ma oggi mi sembra che, anche guardando le performance dei principali listini continentali, quello che emerge sia un messaggio di sostanziale sfiducia nei confronti del sistema Italia, anche perché la borsa di Milano sostanzialmente ha accusato perdite doppie rispetto per esempio a Parigi e a Francoforte. Poi tutti noi sappiamo benissimo che il listino principale, cioè con la maggiore capitalizzazione, è dominato, ha un peso molto rilevante per quanto riguarda le banche. Poi è ovvio quindi che le vendite si concentrino su questi titoli, poi in particolare sul Banco Popolare, meno 4,4%, ma devo dire anche sulle big, perché Unicredito cede il meno 3, cede il 3,4%, la stessa Intesa San Paolo oltre 2 punti percentuali. Un altro titolo poi tra i big che ha ceduto terreno è Fiat, meno 2,7%, penso che tu volessi arrivare a questo titolo. Bravo, mi hai anticipato. Anche Peugeot abbiamo visto però calare molto a Parigi, e devo dire che da noi Renault è il peggior titolo. Oggi una brutta giornata per i titoli auto, soprattutto italiani e francesi. Sì, pesa particolarmente la notizia che arriva da Oltralpe, con General Motors che ha reso noto di non voler effettuare più investimenti in Peugeot, casa automobilistica appunto francese, in cui possiede già una quota del 7%. Sicuramente è una notizia che non ha infuso fiducia negli operatori, in particolare per coloro che detengono quote o azioni nel settore automobilistico. Fiat ne ha immediatamente risentito, poi ricordiamoci anche che Fiat viene da un rally significativo e quindi quelli di oggi sono anche realizzi abbastanza fisiologici sul lingotto. Altro titolo invece che ha conosciuto una settimana di passione vera, mi riferisco a Mediaset, oggi di nuovo il miglior titolo del listino, più 2,76%, qui più che Berlusconi, se ho ben letto, ci sono analisi di un mercato pubblicitario che in Italia e in Spagna potrebbe ripartire, speriamo, visto che anche noi ci lavoriamo. Prego. Un report di Credit Suisse di oggi è uno studio che analizza appunto il mercato pubblicitario italiano e spagnolo in relazione a Mediaset. È infatti noto che i principali mercati d'utenza di Mediaset sono appunto Italia e Spagna, quindi se la pubblicità dovesse tornare a generare ricavi perlomeno soddisfacenti in questi due paesi, anche Mediaset aumenterebbe il proprio fatturato. Di qui il rialzo di Mediaset in borsa. Mediaset beneficia anche di una leggera apertura del procuratore generale della Cassazione a un possibile sconto, banalizziamo in questo caso, del 15% sulla condanna al pagamento di 564 milioni a Caro De Benedetti per il lodo Mondadori. E infatti la notizia di ieri. Allora, il lusso, come sempre nelle giornate più difficili, la cosa che più si salva dei titoli italiani è il lusso. Ferragamo più 0,90, Tod's più 1,40, no? Assolutamente. E Luxottica comunque più 0,10. Sì, sono tutti titoli che oggi hanno tenuto botta sul listino e come dicevamo prima, anche forse un effetto positivo l'ha avuto anche l'ottimo debutto di Italia Independent, che poi è stata tra le migliori del listino con più 16%. Dell'oro, vediamo se ce la facciamo a parlarne oggi, perché poi tutto il fronte europeo, lo dico a chi scrive, ripeto, da inizio d'anno il metallo giallo ha perso il 30% del suo valore, ma veniva da 11 anni consecutivi di rialzo, il 2012 fu l'ultimo, e da inizio aprile ha perso circa il 24%. Le incertezze politiche e economiche su quello che farà la Federal Reserve hanno penalizzato l'oro, oggi è sceso anche sotto i $1,200 l'oncia. Ricordo una frase di George Soros che ad aprile di quest'anno disse, l'oro negli ultimi 2 anni non è più un bene rifugio. Evidentemente aveva ragione a giudicare il prezzo dell'oro, ma ne riparleremo la prossima settimana probabilmente. Vorrei concludere invece con Ciao Condina per quello che riguarda le utilities. Oggi si sono mosse in maniera più composita, però Snam più 1,50, Terna più 1,1, Enel Green Power più 0,70, mentre le controllanti Eni ha perso lo 0,40 ed è nel, se la becco, eccola qua, meno 2,20%. Beh, comunque in una giornata che ripetiamo difficile per il mercato italiano, due società come Snam e Terna che operano in mercati regolamentati, quindi che hanno, diciamo, dei flussi tariffari garantiti, a prescindere da quello che è l'andamento del ciclo economico, hanno ovviamente tenuto botta, anzi hanno guadagnato più di un punto percentuale, proprio in sedute simili che questa categoria di titoli dà il meglio di sé. Sì, anticiclici per definizione. L'euro a quota 1,30 e 11. Grazie a Gio Condina e buon fine settimana a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Grazie. Ciao. Vabbè, dunque c'è un ascoltatore che mi ha scritto riferito alla mia frase che quando un'azienda licenzia è sempre una notizia negativa, lei è populista per audience. No, guardi, io non sono populista per audience. Mi deve spiegare lei qual è la buona notizia nel sapere che un gruppo mette 2500 persone in esubero? Che sia una buona notizia per l'azionista, per chi vuole investire in questo caso in Finmeccanica, sono fatti suoi, ma per me, cittadino italiano e che vivo in questo paese, è solo e sempre una brutta notizia il licenziamento. Se lo fichi in testa, perché non cambierò mai idea. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, come detto adesso ampio spazio e approfondimento al vertice europeo, al Consiglio europeo di Bruxelles che si è concluso, è un Consiglio europeo in cui tra l'altro, come previsto, è stata accolta l'abrogazione della procedura di infrazione per deficit eccessivo per vari stati, tra cui l'Italia. Non siamo più sotto procedura per infrazione, non siamo più sotto osservazione, o meglio, non siamo più sotto osservazione formale. Sostanziale invece lo siamo ancora. L'Europa è scesa comunque a compromessi ancora una volta con David Cameron, con la Gran Bretagna, ed è quindi riuscita anche a sbloccare il vertice sull'occupazione giovanile che si era arenato di nuovo sul bilancio europeo, il budget europeo 2014-2020. Londra infatti difendeva il suo sconto, lo sconto che ottenne la Thatcher ancora. Londra paga meno per essere in Europa. È uno sconto che era stato messo in discussione da Parigi. Una volta accontentato, Cameron ha ritirato la minaccia di veto e il vertice ha approvato un nuovo piano per l'occupazione giovanile che si arricchisce anche di 3 miliardi in più sui 6 miliardi già stanziati, quindi 9 miliardi in tutto. E partirei con il nostro inviato Sergio Nava proprio da questo, e quindi dal fronte europeo, e poi andiamo invece al fronte italiano, che significa la lunga e ampia conferenza stampa del Premier Enrico Letta. Sergio, buonasera innanzitutto. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Dicevo, ho sbloccato il budget per quello che riguarda l'occupazione giovanile. Angela Merkel ha detto che bisogna concentrarsi sulla spesa per i fondi per l'occupazione. C'è chi dice che i 6 miliardi di fondi per l'occupazione siano pochi, ma devono essere spesi prima della fine di questi due anni, quindi dobbiamo focalizzarci su come spenderli. E ha chiesto anche maggiore creatività sul lavoro, sulle politiche per l'occupazione giovanile. E su questo il Premier Enrico Letta ha detto: insomma, l'Italia abbiamo vinto sul tema dell'occupazione giovanile e pareggiato sulla Banca Europea degli Investimenti. Un linguaggio calcistico. Beh, sempre meglio che l'Italia, diciamo, forse meglio l'Italia della politica a Bruxelles di quella di ieri, purtroppo, con la Spagna. Sentiamo Enrico Letta. Credo ci sia da sorridere oggi, mi sembra un risultato importante per l'Italia e mi sembra un risultato importante per l'Unione Europea. Se posso fare una sintesi, abbiamo vinto bene sul tema della lotta alla disoccupazione giovanile, abbiamo vinto di misura sul tema dell'unione bancaria, abbiamo pareggiato sul ruolo della Banca Europea degli Investimenti. Questa è la sintesi che mi sento di dare rispetto ai risultati e rispetto alle aspettative che avevamo. Come sapete, un Consiglio europeo sul quale noi abbiamo caricato molte attese, perché il tema della disoccupazione giovanile è stato per noi di questi 50 giorni il principale impegno nazionale. L'approvazione due giorni fa del piano nazionale per il lavoro per i giovani è stato ciò che mi ha portato qui più forte e in grado, credo, di lavorare bene, perché il risultato finale questa notte sul tema dell'impegno europeo a favore del lavoro per i giovani si è risolto in un risultato molto positivo. Quindi vittoria sull'occupazione giovanile, pareggio per quello che riguarda la vigilanza bancaria europea, ma ne abbiamo già parlato ieri. Sergio Nava, anche tu hai ricevuto la sensazione che tutto sommato si possa parlare di un accordo di fondo, cioè tra le posizioni inglesi, quelle francesi, insomma alla fine è stato un pareggio per tutti? Allora, partiamo dall'occupazione giovanile. Sicuramente l'Italia ha ottenuto quello che voleva due mesi fa quando il governo Letta si è insediato. Lui stesso ha ricordato di aver parlato per prima alla cancelliera tedesca Angela Merkel della sua idea di portare l'occupazione giovanile al centro del dibattito europeo. Ce l'ha fatta, ovviamente 6 miliardi più 3 sono una goccia nel mare, lo ha detto anche ieri il Presidente dell'Europarlamento Martin Schulz. Quello che è interessante vedere è come il governo stanzierà, concretizzerà questo 1,5 miliardi sui 9 complessivi che sarà destinato all'Italia, 1 miliardo nel biennio 2014-2015 e 0,5 miliardo negli anni successivi. Enrico Letta su questo è stato abbastanza vago, ma ha di fatto rinviato al secondo pacchetto per l'occupazione giovanile che sarà varato nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, e soprattutto ha anche detto che è importante rafforzare e in qualche modo rivoluzionare i centri per l'impiego, perché poi ricordiamo una cosa importante: chi prende questi soldi europei, descritto nelle conclusioni, entro dicembre dovrà fare in modo che la garanzia per i giovani sia in qualche modo operativa, e quindi che entro dicembre sia tutto pronto perché un giovane italiano che resta disoccupato, un giovane italiano che finisce gli studi, abbia la possibilità entro quattro mesi di avere un'offerta di lavoro o formativa. Quindi si apre un percorso anche in tempi abbastanza rapidi e l'Italia dovrà fare i salti mortali. Sì, è fatto bene a chiarirlo, perché vuol dire entro dicembre avere questo pacchetto che funzioni. C'è la possibilità che uno si appoggi alle agenzie interinali, per esempio, chiedo, o deve essere espressamente... Questo è tutto da vedere, perché alla nostra domanda, insomma, sul fatto, noi abbiamo ricordato in conferenza stampa al Premier Enrico Letta che in Italia solo il 3% dei disoccupati passa dalle agenzie per l'impiego pubbliche, e quindi in 6 mesi occorre una rivoluzione copernicana di fatto, e lui ha riconosciuto questo, ha detto che bisogna lavorare molto. Poi io ritengo che tutti i dettagli saranno più o meno rimandati al secondo pacchetto per l'occupazione. Questo l'ha fatto capire chiaramente Letta. E allora ascoltiamo appunto la risposta che ha dato proprio alla tua domanda sulle agenzie per l'impiego. Le agenzie per l'impiego è uno dei grandi problemi italiani, non c'è dubbio. Col ministro Giovannini questo tema è stato chiaramente messo al centro dell'attenzione, e il tema agenzie per l'impiego farà parte del secondo pacchetto di interventi sul lavoro. Ci sono delle ipotesi in ballo, però giustamente lei pone l'attenzione su un tema che è centrale, perché se quelle non funzionano, non funziona nemmeno la Youth Guarantee. Io insisto sul fatto che dentro il decreto del fare c'è un primo passaggio di politica industriale, di ripresa di politica industriale, perché il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e soprattutto la ripresa della, la dico semplicemente perché è più comprensibile, la vecchia legge Sabatini, la legge che consentiva investimenti per le imprese, per le piccole e medie imprese soprattutto, in automatico sui macchinari, rappresenta un primo embrione di politica industriale che dimostra come su questo tema abbiamo intenzione di lavorare, e ovviamente a questo seguiranno altri passi importanti, perché io penso che la politica industriale sia fondamentale, importante, e sarà uno dei temi sui quali lavoreremo in prospettiva. Questa è appunto la risposta del Premier Enrico Letta, proprio la tua domanda si aggiornava sul ruolo delle agenzie per l'impiego, perché è chiaro che se vogliamo utilizzare questi soldi deve essere tutto pronto, tu l'hai spiegato molto bene, per dicembre, ossia che a dicembre noi siamo in grado di garantire, ripeto il tuo esempio, che un disoccupato entro 4 mesi viene ricollocato. Auguri, insomma, ecco perché mi chiedevo se a questo punto uno non possa utilizzare anche le agenzie private, le agenzie di placement. Gli altri temi invece affrontati dal Premier Enrico Letta e anche le altre posizioni dei paesi dell'euro. Dopo le informazioni sul traffico, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ultima parte di Focus Economia, vi ricordo siamo in collegamento con il nostro Sergio Nava inviato a Bruxelles, dove oggi si è concluso il Consiglio Europeo. Abbiamo ascoltato quella che il Premier Letta ha definito come una vittoria dell'Italia sull'impiego, sui soldi, gli stanziamenti 3 miliardi più 6 miliardi, però abbiamo anche messo in evidenza come, insomma, se vogliamo utilizzare questi soldi a dicembre dobbiamo essere pronti ad avere un'agenzia per l'impiego che funzioni e che sia in grado entro 4 mesi di garantire il replacement, quindi il ricollocamento di un giovane che ha perso il lavoro. E su questo la mia unica obiezione, che per come funzionano, è lo stesso Premier ha ammesso rispondendo a Sergio Nava che è uno dei grandi problemi italiani, forse uno potrebbe appoggiarsi alle strutture private nel frattempo. Non so se questo sia già stato vagliato e già possibile. Comunque, Sergio, al di là dell'occupazione, che comunque era il tema principale, visto che l'Italia ha avuto quasi triplicati gli stanziamenti, un miliardo e mezzo di euro. Anzi, sentiamo Letta su questo, poi ti faccio la domanda, perché Letta chiarisce bene dei 9 miliardi quanti arriveranno all'Italia. Nell'accordo finale è stato aggiunto una disponibilità di 3 miliardi di euro rispetto ai 6 miliardi precedentemente individuati. È un passo avanti sicuramente importante, ma non ci fermeremo qui, nel senso che quando saremo qui a negoziare nel 2015, nel 2016, faremo di tutto perché in quel momento ci siano altre risorse che possano aggiungersi. Per adesso è sicuramente un risultato molto importante che sia già stato aggiunto questo pacchetto di 3 miliardi ai 6, quindi siamo a una quota complessiva di 9 miliardi. Ma la cosa più importante è quella che riguarda l'Italia. La modalità e la trattativa sulla modalità con cui questi soldi saranno utilizzati ci consente di oggi avere molto più vantaggi, un risultato molto più positivo di quanto all'inizio era stato prospettato quando un mese fa si è cominciato a discutere di questo tema. Noi riusciremo ad arrivare sulla quota complessiva dei 9 miliardi che oggi 6 più 3 sono allocati dall'Unione a 1,5 miliardi di questa cifra per l'Italia. Credo che questo rappresenti per noi un grandissimo risultato, perché noi di fatto quasi triplichiamo la cifra per l'Italia che su questo tema pensavamo potesse essere assegnata. E questo è il pacchetto occupazione giovani. Faccio notare che però il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha detto i 6 miliardi più i 3 di oggi appaiono una cifra modestina. Vanno nella direzione giusta, ma per risolvere i problemi in Europa mi sembrano una cifra modestina. Unione bancaria, se ne è parlato dopo l'accordo raggiunto per quello che riguarda l'Unione bancaria. Il Premier Letta ha detto la crisi, l'accordo preso consentirà che qualunque crisi bancaria ci sarà in Europa saranno salvaguardati i conti sotto i 100.000 euro. Ancora, per quello che riguarda altri interventi del Premier, ha parlato anche, insomma, delle varie posizioni in Europa nei confronti della Banca Centrale Europea. Sergio, io su questo ti vorrei sentire, perché insomma, lì un riferimento alla Germania c'è tutto. Ascoltiamo questo passaggio in cui Letta ha definito morbosa l'attenzione di alcuni paesi sul ruolo della Banca Centrale Europea. Banca Europea degli Investimenti, nella nostra analisi del futuro dell'Unione, gioca un ruolo essenziale, perché vorremmo che fosse effettivamente il braccio per l'economia reale, e braccio per l'economia reale è anche un modo per proteggere la Banca Centrale Europea. Quando dico proteggere, i riferimenti ovviamente sono alla vicenda di Karlsruhe e a tutta questa attenzione morbosa che c'è in alcuni paesi attorno a un ruolo eccessivamente di protagonismo della BCE rispetto a quello che dovrebbe essere. Ed è proprio far crescere il ruolo della Banca Europea degli Investimenti in una dinamica di maggiore protagonismo. Qui in questo testo è molto legata alla questione delle piccole e medie imprese e ovviamente per noi è un fatto sicuramente importante, abbiamo spinto in questa direzione. Sergio, alla luce anche di questa dichiarazione, ma diciamo va bene sul lavoro, ma la fase 2 a cui faceva riferimento Letta cosa sarà? Sarà dopo settembre, dopo le elezioni tedesche? Ma questo è... La Germania sta decisamente condizionando qualsiasi calendario, quindi questa fase, qualsiasi cambiamento, se ci sarà, dovremo capirlo dal 23 settembre, il giorno dopo le elezioni tedesche. Le dichiarazioni di Letta, attenzione, è molto, molto interessante e anche condivisibile quello che dice Letta parlando di Banca Europea degli Investimenti e Banca Centrale Europea. Lui dice, attenzione, finora abbiamo lasciato da sola la Banca Centrale Europea a cercare di mantenere stabile l'economia nella zona euro in una situazione di incertezza e di crisi. Abbiamo una banca che si chiama Banca Europea degli Investimenti, recentemente ricapitalizzata per 10 miliardi, che dovrebbe fare una cosa molto semplice, fare prestiti alle imprese, soprattutto alle piccole e medie imprese, perché queste innovino, creino occupazione e insomma portino avanti l'economia. E ci sono paesi, soprattutto del nord Europa, ma fiancheggiati anche dalla Germania, che invece puntano ad avere una bella cassaforte in questa BEI con un rating da tripla A. Allora lui dice, e l'Italia dice insieme anche ai paesi del sud Europa, spalleggiati in questo caso dalla Francia, usiamo questa banca per fare gli investimenti, si chiama Banca Europea degli Investimenti, usiamola per fare investimenti e quindi aumentiamo anche la capacità di leveraging di questa banca affinché muova quanti più miliardi possibile e crei di conseguenza occupazione. Perché il principio è questo, per ogni miliardo o milione prestato dalla BEI, essendo un'istituzione, questo poi va a garanzia di un sottostante, mettiamo così, molto più alto, cioè è vero, uno dice 10 miliardi sono pochi, ma in realtà un milione di prestito della BEI è un prestito di altissima garanzia, perché non è come un prestito di una banca privata, per intendersi, quindi non deve sottostare a Basilea 3, ma soprattutto quando c'è un prestito cofinanziato dalla BEI, lo dico in maniera molto semplicistica, vale di più, cioè permette di smuovere, ha un effetto moltiplicatore, altri prestiti. Ed è chiaro il ragionamento che fa Letta, anche perché, insomma, appunto, lo ricordavi tu, si chiama Banca Europea degli Investimenti e non Banca Europea della Capitalizzazione. Ultimo passaggio invece sull'Italia, Sergio, riferendosi anche all'incontro con Silvio Berlusconi, Letta ha detto va bene, su IVA e IMU continueremo a fare di tutto, però non sono qua per sfasciare i conti. Sulle altre due questioni, IVA e IMU, erano impegni presi con il discorso di insediamento in Parlamento e continueremo, come ho sempre detto fin dall'inizio, a far di tutto perché senza sfasciare i conti pubblici, perché chi pensa che io sia qui per sfasciare i conti pubblici ha sbagliato Primo Ministro, io sono qui per tenere in equilibrio i conti pubblici italiani e riuscire a far partire, ripartire l'economia attraverso le scelte che si possono negoziare, e oggi quello che abbiamo ottenuto da Bruxelles è la dimostrazione che se si va con le idee chiare, scegliendo gli obiettivi giusti, con le alleanze giuste, si ottengono risultati, soldi, risorse su ciò che è utile, perché quello che abbiamo ottenuto a favore della lotta alla disoccupazione giovanile dimostra che si possono ottenere risultati a Bruxelles agendo nel modo giusto. Sì, occorre poi spenderli, aggiungo io, quei soldi. Comunque, Sergio Nava, l'ultimo tuo commento lo vorrei sull'accoglienza di Letta. Non è la prima volta che Letta si presenta a un vertice europeo, però così delicato forse mai. E insomma, anche le sensazioni che tu hai registrato nei confronti del governo Letta e dell'Italia. L'impressione è che sia già ben inserito all'interno del consesso europeo, nel senso che chiaramente quello che l'Europa vuole è stabilità, quello che l'Europa vuole sono conti pubblici in ordine, un paese che riparta dopo un po' troppo, dopo un 20 anni di scarsa progettazione e anche conti pubblici in costante deterioramento, quindi è giovane, ha le idee chiare, diciamo che in Europa sta facendo sentire la sua voce, su questo ci sono pochi dubbi. Quindi anche tu sei d'accordo nel ritenere una vittoria, per quanto parziale per l'Italia, l'aumento degli stanziamenti sulla disoccupazione giovanile? È una vittoria abbastanza simbolica, sono pochi soldi, su questo bisogna essere molto chiari. Anche secondo però me sono pochi. Due mesi fa questo tema non era in agenda del Consiglio europeo e questo l'Italia lo può giustamente rivendicare di averlo messo in agenda addirittura in primo piano. Due mesi fa questo argomento non c'era, quindi la vittoria io la collocherei un po' a metà strada, perché non ci sono molti soldi ma l'argomento ora è in agenda ed è in primo piano, e il 3 luglio ci sarà un incontro a Berlino per parlare ancora di questo, e quindi è ormai veramente in primo piano all'interno del dibattito comunitario. Allora, benvengono anche le vittorie simboliche, poi vorremmo vedere le vittorie sostanziali. L'importante è non avere le vittorie di Pirro, perché quelle invece sono controproducenti. Grazie al nostro inviato a Bruxelles Sergio Nava, e da Sebastiano Barisoni un ringraziamento come sempre anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Un augurio di buon fine settimana a voi in ascolto, a chi lo farà, e di buon lavoro a tutti gli altri. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.